Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno anche per questa giornata del venerdì 14 febbraio, con Renzi che fa le bizze ovviamente, ricatta il governo, ma spuntano all'orizzonte un drappello di volonterosi, tra virgolette, responsabili. Tutto questo naturalmente nei titoli della rassegna stampa, ma subito la bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Iran al via la campagna per le parlamentari, migliaia di candidati moderati respinti. Iraq, migliaia di donne in protesta. Palestina, disoccupazione al 25%. Sudan, pronto a risarcire le vittime dell'attacco alla USS Cole. Stati Uniti e talebani negoziano una riduzione della violenza per 7 giorni. E il Senato americano vota per limitare i poteri di guerra di Trump sull'Iran. E ancora Myanmar, scuola colpita da razzi. Australia sotto controllo. Tutti gli incendi. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con l'Arabia Saudita. Il regno ha accusato la Turchia di sostenere le milizie radicali in almeno 3 paesi. Il ministro degli esteri saudita, Adel al-Jubeir, ha confermato che il regno si oppone a ciò che è descritto come l'incursione della Turchia in Siria e il suo sostegno alle milizie estremiste in Libia e Somalia. Al-Jubeir ha dichiarato in una conferenza stampa a margine della sua visita nella capitale rumena, Bucarest. Ha espresso la preoccupazione del suo paese per il trasferimento di combattenti stranieri dalla Siria alla Libia, sottolineando che ci saranno ripercussioni per l'Europa. Emirati, svelato il progetto per la prima foresta urbana di Abu Dhabi, che dovrà rendere la città più vivibile. La foresta, attualmente in fase di piantagione nell'isola di Rem, sarà un significativo allontanamento dai prati ben curati e dalle palme posizionate con cura, che attualmente compongono molti degli spazi di Abu Dhabi, hanno detto i designer. Si spera che i visitatori vivano una foresta selvaggia, autosufficiente, dove ci sarà un'autentica biodiversità. Gli alberi locali, che crescono naturalmente negli Emirati, verranno riutilizzati per ridurre al minimo la necessità di manutenzione. Solo una dei centinaia di progetti avviati in un nuovo schema che mira a cambiare il paesaggio di Abu Dhabi, inserendo siti più naturali nella città. Iran, ieri si è aperta la campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari, con migliaia di potenziali candidati respinti dall'organo conservatore di controllo a favore dei sostenitori della linea dura. 17.150 persone si sono candidate per le elezioni parlamentari e hanno iniziato la loro campagna giovedì, ha detto la TV di Stato. Il Consiglio dei Guardiani, che deve approvare i candidati, ha impedito a 6.850 contendenti moderati e conservatori, tra un totale di 14.000 candidati, di partecipare alle elezioni che si terranno il 21 febbraio. Il Consiglio dei Guardiani sovraintende le elezioni iraniane ed è dominato dagli ultraconservatori. Ha fornito diversi motivi per la squalifica, tra cui la corruzione e essere infedeli all'Islam. Il presidente moderato iraniano Hassan Rouhani all'inizio di questo mese aveva criticato le squalifiche, insistendo sul fatto che gli iraniani devono avere il diritto di scegliere tra i diversi movimenti politici. I moderati hanno affermato che nella maggior parte delle città non hanno neanche candidati per partecipare alle elezioni. Il rischio è che i sostenitori della linea dura continueranno a dominare il futuro parlamento iraniano. Iraq. Sono scese in piazza migliaia di donne che si sono unite alle proteste antigovernative per manifestare contro gli inviti alla segregazione di genere lanciati in questi giorni dal leader clericale populista estremista e sciita Muqtada al-Sadr, che aveva criticato la presenza delle donne nei cortei definendola offensiva per la morale pubblica. le ragazze si sono riunite per le strade di tutto il paese contro la violenza verso i manifestanti da parte delle forze di sicurezza e dei miliziani. A Baghdad, Bassora, Nasiriya, Najaf e Kerbala hanno voluto far vedere che loro sono parte delle manifestazioni che hanno già fatto cadere un primo ministro e manifestare solidarietà ai compagni maschi. Martedì la Lega Irachena per le Donne aveva condannato l'eccessiva violenza commessa dai servizi di sicurezza iracheni. Oltre 600 manifestanti sono stati uccisi, almeno 18.000 altri feriti in 4 mesi dall'inizio delle proteste prevalentemente pacifiche. Le donne che hanno partecipato e persino condotto alcune manifestazioni che sono state particolarmente violente, ha dichiarato la Women's League, uccise anche importanti attiviste come Sara Taleb, Huda Khuteir, Zahra Carlusi e Janan Shirmani. Tutte e quattro sono state uccise da colpi d'arma da fuoco durante le proteste. Un razzo colpisce una base settentrionale irachena a Kirkuk, dove sono presenti i soldati americani. Nessuna vittima. Siria, 4 persone della stessa famiglia, madre, padre e 2 figli, tutti sfollati nella provincia di Idlib, sono morti soffocati a causa del malfunzionamento di una stufa montata all'interno della loro tenda. Sono circa 700.000, secondo le Nazioni Unite, gli sfollati siriani in fuga dal conflitto nella regione di Idlib. 100.000 gli sfollati delle ultime 48 ore in quella zona dove combattono russi, siriani da una parte e turchi dall'altra. Turkey's defense minister has been quoted saying... Il ministro della difesa turco Alusi Akar ha commentato ieri sottolineando che i militari turchi avrebbero usato la forza a Idlib contro coloro che non si attengono al cessate il fuoco, compresi i radicali. Nel settembre 2018 il presidente russo Putin e la sua controparte Erdogan hanno raggiunto un accordo noto come l'accordo di Sochi per creare una zona di demilitarizzazione nella provincia di Idlib, di cui grandi parti sono controllate da militanti appoggiati dall'estero. Secondo l'accordo di Sochi, gruppi radicali o quelli identificati come militanti avrebbero dovuto ritirarsi dalla zona cuscinetto. Intanto il Parlamento siriano ha approvato una risoluzione che condanna il genocidio armeno all'inizio del XX secolo sul territorio dell'Impero Ottomano. Israele-Palestina. Il ministro degli esteri israeliano ha affermato che il paese taglierà i legami con il commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite dopo che il suo ufficio ha pubblicato un elenco di 112 società con legami commerciali con gli insediamenti ebraici in Cisgiordania. La decisione di rilasciare il database delle aziende, che comprende giganti dei viaggi come TripAdvisor, Expedia e Airbnb, ha scatenato la furia di Israele, con il primo ministro Benjamin Netanyahu che ha definito il corpo di parte e un tentativo di oscurare il nome di Israele. Il tasso di disoccupazione della Palestina si è attestato al 25% alla fine del 2019, registrando un leggero aumento rispetto al 2018, secondo un sondaggio pubblicato ieri. Secondo il Palestinian Labor Survey, pubblicato dall'Ufficio Centrale Palestinese di Statistica, il tasso di disoccupazione nella striscia di Gaza è del 45% rispetto al 15% in Cisgiordania, mentre il tasso di disoccupazione maschile in Palestina è del 21% rispetto al 41% delle donne. Il tasso di disoccupazione tra i giovani di età compresa tra i 19 e i 29 anni in possesso di un diploma superiore ha raggiunto il 52%, con il 68% per le donne e il 35% per i maschi. Il principale datore di lavoro nel mercato locale è il settore dei servizi, comprese le industrie delle telecomunicazioni, della sanità e dell'istruzione, afferma il rapporto. L'indagine ha rivelato che il numero di palestinesi impiegati in Israele negli insediamenti israeliani era circa di 133.000 persone nel 2019. Egitto. La polizia ha trasferito l'attivista egiziano arrestato all'arrivo all'aeroporto del Cairo dall'Italia in una struttura di detenzione meno favorevole, ha detto ieri un gruppo locale per i diritti umani, proprio mentre i suoi genitori si presentavano per una visita. I funzionari hanno arrestato Patrick George Zaki, 28 anni, sostenitore dei diritti umani e studente all'Università di Bologna, dopo essere sbarcato al Cairo per un breve viaggio a casa. Quando i genitori di Zaki sono arrivati alla stazione di polizia notizie hanno solo visto il figlio che veniva trasferito verso un'altra struttura più affollata e a breve distanza. Quando hanno incontrato Zaki, meno di un minuto era rimasto delle ore di visita, ha detto il suo avvocato. Zaki ha raccontato agli avvocati che durante la custodia è stato bendato, picchiato e torturato con scosse elettriche mentre veniva interrogato sul suo attivismo. Non vi è stata alcuna risposta immediata da parte del Ministero degli Interni egiziano in merito alle accuse. Libia, nonostante l'impegno al cessate il fuoco delle Nazioni Unite, ci sono combattimenti a sud di Tripoli, sospesi i voli per alcune ore ieri all'aeroporto di Tripoli. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Sudan has agreed to compensate the families of sailors killed. Il Sudan pagherà con un accordo da 30 milioni di dollari un risarcimento alle famiglie di 17 marinai della Marina americana uccisi nel 2000 dal bombardamento della USS Cole nel tentativo di essere rimossi dalla lista degli stati sponsor del terrorismo degli Stati Uniti. Il governo del Sudan nega esplicitamente il suo coinvolgimento nell'attacco e afferma che il pagamento annunciato mercoledì intende risolvere le accuse storiche di terrorismo lasciate dall'ex regime. Il presidente di allora, Omar al-Bashir, è stato espulso in un colpo di stato militare ad aprile a seguito di una lunga rivolta popolare. Russia, un tribunale distrettuale di Mosca ha inflitto a Twitter e a Facebook una multa da 4 milioni di rubli, ciascuno circa 58 mila euro, per essersi rifiutata di porre in territorio russo i server con i dati dei cittadini russi. Una controversa legge del 2014 obbliga ad archiviare i dati degli utenti russi in server che si trovano fisicamente in territorio russo. Secondo esperti, con questa legge, per gli enti governativi, per i servizi segreti di Mosca, è più facile avere informazioni sui soggetti finiti nei loro mirini. Gli scienziati russi hanno sviluppato un prototipo di farmaco per la depressione cronica. Secondo le statistiche dell'OMS, ogni anno per questa malattia muoiono circa 800.000 persone. Afghanistan, gli Stati Uniti e i talebani hanno raggiunto un accordo su una riduzione della violenza in Afghanistan della durata di 7 giorni, ha detto ieri il segretario della difesa americano Mark Esper. Sono qui oggi a consultarmi con gli alleati su questa proposta. Abbiamo avuto una serie di incontri bilaterali e collettivi produttivi sul percorso da seguire, ha detto Esper durante una conferenza stampa a Bruxelles. Esper e altri leader della NATO erano in città per una conferenza ministeriale sulla difesa. I dettagli dell'accordo non sono stati resi noti, ma due funzionari talebani hanno detto di aver dato un ultimatum. Se Washington non avesse risposto all'offerta di una riduzione della violenza di 7 giorni, se ne sarebbero andati. Pakistan, il presidente turco Erdogan è arrivato a Islamabad giovedì sera per una visita di 2 giorni in Pakistan. Il primo ministro pakistano Imran Khan ha ricevuto il leader turco alla base aerea di Nur Khan. L'obiettivo sono accordi commerciali di difesa. La Turchia è la seconda più grande fonte d'armi per il gigante dell'Asia meridionale dopo la Cina. E le autorità pakistane hanno approvato l'ampliamento di nuove normative che limitano i social media, regole che potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui le società come Facebook e Twitter operano nel paese, che critici sostengono che minacciano la libertà di espressione. In base alle nuove norme approvate dal governo pakistano, le aziende dei media devono rimuovere i contenuti che le autorità pakistane ritengono discutibili, istituire uffici e data center nel paese, rimuovere la crittografia dei contenuti su richiesta delle autorità. Myanmar, almeno 19 bambini sono stati feriti quando una scuola elementare è stata colpita da bombardamenti nello stato di Rakhine. Gli scontri tra truppe governative e ribelli etnici si sono intensificate, dove decine di migliaia di persone sono state sfollate da quando sono iniziati gli scontri nel dicembre 2018, portando un nuovo caos nella regione, da cui oltre 730.000 musulmani Rohingya sono fuggiti da una repressione militare nel 2017. L'esercito di Arakan, reclutato dalla maggioranza per lo più buddista, combatte per una maggiore autonomia. Il fuoco dell'artiglieria ha colpito la scuola nel villaggio di Kamwechang, nella cittadina di Butidwang, ieri mattina. Cina, salgono a 1500 i morti per il coronavirus, 48.000 contagi, WhatsApp bloccato e internet lento. Il Giappone ha annunciato la sua prima vittima, una signora anziana, dopo aver confermato 44 casi su una nave da crociera in quarantena vicino a Tokyo. Australia e vigili del fuoco hanno riferito che tutti gli incendi nel New Galles del Sud sono sotto controllo. Gli incendi negli ultimi mesi hanno causato 33 vittime. Stati Uniti, il Pentagono sblocca altri 3,8 miliardi per il muro al confine con il Messico. È probabile che debbano rinunciare all'acquisto di caccia e droni. Il presidente si è detto pronto a mettere il veto dopo che il Senato americano ha votato una risoluzione in cui limita i poteri di guerra contro l'Iran del presidente Trump. Secondo il testo approvato, la Casa Bianca, prima di decidere ulteriori iniziative militari verso Teheran, dovrà chiedere l'autorizzazione del Congresso. Trump ha anche detto di volere fuori dal governo la gente cattiva. Lo ha twittato nel pieno del caso Stone, dove il presidente è accusato di interferenze politiche nella giustizia e di voler purgare il Dipartimento di Giustizia dopo averlo fatto alla Casa Bianca, al Dipartimento di Stato, in ritorsione all'impeachment. Drain the swamp, ha twittato il presidente, bonificare la palude. Un procuratore federale di New York parla di criminalità organizzata e accusa la Huawei di furto di segreti commerciali. Venezuela, tensioni sul futuro di PDVSA. Due articoli pubblicati permettono di comprendere lo stato attuale dell'industria petrolifera venezuelana. Il Washington Post ha scritto su come la Russia sia stata il grande vincitore delle sanzioni. Il New York Times riferisce su come PDVSA, la compagnia statale petrolifera, non controlla più l'industria petrolifera venezuelana, in quanto un certo numero di compagnie straniere, tra cui la Rosneft, ha assunto la produzione. Inoltre, come riporta S&P, le esportazioni di Rosneft negli Stati Uniti sono aumentate con il calo delle esportazioni del Venezuela negli Stati Uniti. Brasile, la polizia nello stato di Bahia ha ucciso Adriano de Nobrega, un sicario legato all'omicidio della consigliera Marielle Franco. Anche Nobrega, ex capitano di polizia, sarebbe collegato alla famiglia Bolsonaro. Nobrega si nascondeva in una casa di proprietà di un politico collegato al presidente. In Brasile molti si chiedono se il sicario non sia stato ucciso per evitare che dicesse cosa sapeva sulla corruzione delle élite politiche. Non ci resta che concludere con l'Antartide, dove è caldo da record per la prima volta, 20,7 gradi. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento domani con una nuova raffica di notizie, in questo caso orientale. Okay, you're on the air. Okay. When they say fools fall in love, but they are happy. Say we can be to

cadere Conte. Mentre abbiamo i giornali della destra, il riformista di Sansonetti, Bonafede non si tocca, il partito dei PM minaccia le urne, perché Sansonetti pensa che se dietro c'è un grande il complotto demo-pluto giudaico dei giudici, ma la Libero invece ha un nuovo eroe. Il giornale dell'estrema destra, la sfida di Renzi a Conte, mentre il Tempo parla di governo giustiziato. L'Avvenire invece guarda il doppio rischio da una parte Renzi e dall'altra parte però anche le stime della crisi economica, per niente lusinghiere, anzi, per il governo. Poi vado al Corriere, alta tensione tra Renzi e Conte, oppure se vogliamo guardare il giornale, capolinea Conti, governo alla frutta. Sarà poi vero o non sarà vero? Questo lo vediamo poi nei giorni a venire, perché ormai siamo abituati all'altalena siso continua di alti e bassi del Conti 2. Comunque in retroscena, che ci racconta Massiliano Scafi, l'esecutivo al capolinea allo scenario, vede protagonista anche il Presidente della Repubblica, come sempre diventa protagonista quando in qualche modo qualcuno sale al Quirinale. Mattarella predica la calma, prima si vota per il referendum. Linea tendista del Colle, ancora non siamo di fronte ad una crisi, impossibile sciogliere le Camere adesso. Quindi il referendum sul taglio ai parlamentari, che tra l'altro ricordiamo, se andasse alle urne con questo sistema elettorale e con questo taglio ai parlamentari, col 40% la destra, il 70 più o meno per cento degli eletti, quindi sarebbe un disastro anche democratico, oltre che rispetto alla catastrofe legislativa. Comunque andiamo alla pagina del Corriere, che parla nel governo lite infinita con Italia Viva. Conte è opposizione maleducata, conferma anche questo intervento di Marco Gallusto dal Corriere. E allora Renzi, se vuole un'altra maggioranza lo aiuto, e questo è Renzi che propone proprio il grande centro, che poi è il suo sogno, la sua utopia. I have a dream. Allora, ma Luther King aveva un sogno un po' più glorioso. Renzi vuol portare Forza Italia in maggioranza. Questo è, ognuno ha i suoi sogni o i suoi incubi. Il lodo sulla prescrizione è inserito nel disegno di legge giustizia. Ma è poi vero che cade il governo? Il giornale tema anche un altro colpo di scena. Caccia i responsabili, rispunta Fioramonti. Manovra di tre quinte, cioè trovare un drappello di responsabili che sostituisce il drappello dei renziani. Conte e Franceschini guardano ad ex 5 Stelle ed Azzurri, pensavano dei forti italioti, che bypasserebbero Renzi e farebbero la cosa direttamente con Conte, no? E quindi Renzi rimarrebbe con le pive nel sacco. Questa è la politica italiana e la sua leggibilità per chi la segue, anche per gli lavori, diventa davvero, a dir poco, escatologica, ma è una scatologica da latrina. Comunque, andiamo il Premier chiama al Colle, in caso di crisi niente urne prima dell'autunno, quindi da qui l'autunno chissà cosa succede, francamente, perché ogni giorno qui leggiamo una cosa del suo contrario. Ma allora, il Manifesto, commentando questa vicenda con Andrea Fabozzi, dal governo a tre gambe un rinvio sulla prescrizione. Tempi lunghi, tre gambe sono Leo, PD, 5 Stelle e poi la quarta gamba è Renzi, ma è una gamba mobile, come abbiamo visto. Tempi lunghi, via libera la riforma del processo penale con legge delega, dettagli ancora aperti, escluse le parti che potevano provocare lo scontro tra con il CSM e la NM. La cosa che ieri è stata così dirompente è stata evidentemente la mancanza, l'assenza manifesta e quasi da manifesto, direi, dei ministri di Italia Viva al Consiglio dei Ministri, che si parlava anche di prescrizione. E quindi, come dire, è una presa di distanza fin troppo clamorosa. Su questa assenza interviene la cattiveria di Spinosa dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Conte: l'assenza di Renzi dal Consiglio dei Ministri è ingiustificata, basta che non si faccia accompagnare dai genitori. È una roba bestiale. Grazie Alfredo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buon San Valentino a tutte e tutti. I giornali di oggi sono qui pronti a recitare il De Profundis. Sperano tutti nella crisi di governo, la crisi di carnevale. Infatti Repubblica in prima pagina titolone: qui viene giù tutto, la maggioranza è allo sbando, il premier dice no ai ricatti sulla prescrizioni. Renzi risponde sfiducia per buona fede, entro un mese pronto pure al voto, consulto tra Presidente del Consiglio e Quirinale con una telefonata in serata. Zingaretti dice Matteo si comporta come un bambino che gli rubano le macchinine, come fece esattamente Enrico Letta. Ricordate Enrico Letta? Bene, dopo ne parleremo per la corsa al Campidoglio. Sempre sulle pagine di Repubblica, oltre a tutto ciò che Alfredo ha appena ricordato, c'è anche da parecchi giorni un attacco che i populisti stanno facendo a questo giornale. E oltre a sì, intimidazioni, buste con le polveri, eccetera eccetera, ci sono continuamente pagine che ricordano questa cosa. Fra l'altro c'è anche una notizia su cui è bene fermarsi un attimo, sul caso Gregoretti. Ad esempio il procuratore di Catania Zuccaro dice subito l'udienza preliminare, poi valuterò se chiedere il proscioglimento o rinvio a giudizio. Ma il pubblico ministero su Salvini dice l'archiviazione a questo punto ormai è impossibile. E ora si apre il caso Open Arms, che si aggiunge alle tante richieste di giudizio appunto di Salvini. Entro lunedì l'ex premier dell'interno presenterà una memoria difensiva alla giunta in Senato. E c'è un po' di bagarre a destra, gli estremisti di destra siete voi, c'è scambio di colpi tra Lega e Fratelli d'Italia, lite con la Meloni e la svolta interna, Giorgetti alla guida dei rapporti con l'estero. Avevamo citato Zingaretti, Zingaretti che appunto si confida con Giovanna Vitale nelle pagine di Repubblica, e il leader dei Dem è convinto che Renzi non creda più nella coalizione e pensa che voglia solo logorare tutto. È un gioco che ormai è stato scoperto, e rilancia le sue proposte su crescita e welfare. Niente accordicchi, il governo vive solo se riesce a fare delle cose concrete. Stessa musica sulla Stampa, il giornale di Torino, che parla di governo in bilico. C'è appunto il rilancio di questa notizia che Conte parla con Mattarella, si confida, e Mattarella gli dà il via libera per poter continuare eventualmente con un rimpasto di governo per poter sostituire i due ministri di Italia Viva. E c'è un reportage di Alessandro Mondo e Andrea Rossi. Salvini ora aspetta la crisi, la maggioranza è allo sbando, unita solo per processarmi, mentre è al Lingotto di Torino lo aspettano 500 persone, ceto politico, tanti militanti e una rappresentanza del mondo del lavoro quanto mai trasversale, industriali, commercianti, sindacati di polizia, sindacati, c'è persino un esponente della CGIL, Gianni Esposito. Chiedono al governo responsabilità e strategie per il futuro, l'accompagnamento alle imprese per la mobilità sostenibile e per salvaguardare l'occupazione, la garanzia della produzione di auto elettriche negli stabilimenti italiani e il contrasto agli infortuni sul lavoro. Tutta musica per le orecchie di Matteo Salvini. E mentre invece il Carlino, che si occupa con una bella inchiesta di pensionati di cui parleremo più avanti, parla anche delle nuove materie di riforma del mille proroghe e nella sanità ci saranno molti medici che lavoreranno fino a 70 anni per coprire gli specializzanti che saranno già al lavoro dal terzo anno. L'obiettivo è sopperire appunto la carenza degli ospedali. Le famose flebo col Parkinson, caccia alla vena, che sarà anche un gioco a premi. Comunque parlavi di Salvini e la Gregoretti, il giornale ruola anche il vecchio Di Pietro, non Italia Viva ma Italia dei Valori, IDV, la bomba di Di Pietro sul caso Gregoretti, premier colpevole rischia più di Salvini. Questo è, e Salvini è sempre dal giornale, scusate, con Chiara Giannini, Salvini non sono condannato, in arrivo altri guai dalla Russia, questo arriva dalla pagina del giornale. Ma I PM di Catania, però dice il Fatto Quotidiano, chiederanno il processo per Matteo Salvini. L'altra spina, il 27 la giunta decide sulla nuova richiesta di autorizzazione per Oper AMS, ma le spine continuano perché arrivano anche altri guai dalla Russia, dicono i giornali sul versante di Salvini. Beh, continuiamo allora sul PD. Il PD presenta ancora una volta il suo piano Italia, cosa che è già stata fatta, ma viene riproposta da Zingaretti in questo momento in cui c'è anche odore di elezioni, quindi si rimette a posto anche la vetrinetta dei partiti. Parità salariale, scuola fine 18 anni, la campagna del PD. Questo un piano per l'Italia, dice Zingaretti, che presenta i suoi pezzi da 90. Ma la Lega, che appunto da una parte ha due aspetti: da una parte sente l'odore del sangue perché con le elezioni già si vede Salvini premier, e dall'altra però vede che Fratelli d'Italia gli rosica, chi risica rosica nei consensi alla sua destra, oddio, alla destra, chi sia a destra di chi, adesso non ci metterei la mano sul fuoco. Comunque Giancarlo Giorgetti in qualche modo incarna la linea così moderata, tranquillizzatrice della Lega che si presenta alle elezioni. Allora, la svolta moderata, tra virgolette, da Marco Cremonese dal Corriere, viene descritta appunto dal giornale di Milano. La svolta moderata di Salvini avverte la Meloni, basta attacchi. E allora su questo duello, questo derby, non tra Milan Inter ma tra la Meloni e Salvini, il duello Lega Fratelli d'Italia continua. La Meloni, noi estremisti, con Le Pen ci stanno loro. Quindi loro stanno con i focolarini, non so con chi stanno Fratelli d'Italia, stanno con Orban, quindi vedete che a destra di chi è difficile. La replica Salvini, che aveva dipinto Fratelli d'Italia come destra radicale e oltranzista, quindi c'è aria di frizione anche perché devono decidere chi è il candidato in Puglia. Allora, ma dicevo che Giorgetti presenta l'ala rassicurante, quella che alla fine ci fa tutti votare Lega, perché con me la Lega è buona, resteremo nell'euro, sui migranti si collabori, ora Bruxelles ha capito. Oh, è un presepe, improvvisamente diventa un presepe con la Lega. L'ex sottosegretario, se Draghi si ritira, una perdita per l'Italia. Insomma, questo è quello che ci racconta la pagina del Corriere con Giorgetti, che è l'anima grigia, se si dice così, o forse nera per l'appunto, della Lega. E poi c'è una nuova figurina nell'album Panini dei cattivi del giornale. C'è Saviano sicuramente, c'è qualche magistrato, c'è sicuramente la Boldrini, ma c'è anche la Schlein. E improvvisamente la Schlein diventa: allora ho amato uomini e donne, ora sto con una ragazza. Questo è questa cosa sarà anche San Valentino, però noi della Schlein ci interessa tutto, meno con chi ha amato, con chi sta. Sono affari suoi e francamente non ce ne frega niente. La cosa drammatica è che si fa riferimento a un'intervista fatta con Daria Bignardi di Alice Klein, che è durata un'ora, e i quotidiani riportano minuti in cui parlava della sua vita privata. È la politica gossip, non è particolarmente una novità. La novità di queste elezioni regionali sono state le sardine, che tornano a far parlare di sé. I ministri ci ascoltano e torneremo in piazza. La Sardina Massimiliano Pern via i disegni di legge sicurezza e il memorandum Italia-Libia, che sarebbe naturalmente un passo in avanti di questo governo 2 Conte, al di là della crisi incombente. Se andrà da Conte gli dirò: i migranti non sono un nemico. Lui dirà: sicuramente non sono un nemico, proprio nelle cose concrete cosa si fa. Comunque c'è chi ci chiede, dice appunto questa Sardina, di essere più duri, ma noi abbiamo il nostro stile e non lo cambieremo. La politica e le istituzioni ci stiamo presentando con rispetto di chi non è forza politica. I 5 Stelle manifestano contro i vitalizi, liberi di farlo, ma lo stesso impeto me lo sarà aspettato per questioni più importanti, ad esempio per la difesa dei diritti delle persone. E questo caso difficile dargli torto. Ma Domenico Di Masi, dal Fatto Quotidiano, che parla del Sud, l'idea geniale delle sardine. L'idea geniale delle sardine sarebbe, questo viene scritto da Domenico Masi, un Erasmus dei giovani meridionali nell'Università del Nord. E quindi, secondo Domenico Di Masi, geniale perché in qualche modo pareggerebbe il gap tra nord e sud anche nella formazione, che poi è la base, no, evidentemente, per lo sviluppo di una società. Quindi dice Masi, il sociologo, dalla pagina del Fatto Quotidiano, è un'idea geniale delle sardine, un Erasmus dei giovani meridionali nell'Università del Nord e dei giovani settentrionali nell'Università del Sud, quindi un incrocio che consentirebbe ai meridionali di apprendere come ci si organizza, i settentrionali come non sprecare le risorse. Sì, ci sono ancora altre notizie che riguardano appunto la politica e il governo. Sono notizie che riguardano il reddito di cittadinanza. E c'è una bella intervista di Maria Rosa Tomasello a Domenico Parisi, che ci dice che con ANPAL abbiamo dato lavoro a quasi 40.000 persone. Se non ci mettono il bastone tra le ruote, in un anno rientreremo a regime. E c'è Gentiloni che ci parla appunto dall'Europa, dice: il prodotto interno lordo salirà del solo dello 0,3%. Moody's bacchetta il governo sui ritardi delle riforme e il reddito, che appunto il reddito di cittadinanza aiuta il PIL dell'Italia. Noi siamo comunque agli ultimi per la crescita nell'Unione Europea. Il ministro del Tesoro, il ministro Gualtieri, dice: il paese è fermo e a colpa anche del coronavirus, che è un rischio per la nostra economia. Dobbiamo mettere i conti al sicuro, è difficile centrare l'obiettivo dello 0,6 che ci eravamo proposti ad inizio mandato. Per Palazzo Chigi, gennaio non basta per valutare comunque gli impatti negativi, occorrerà ancora altro tempo per arrivare a dei dati oggettivi. Sì, e quindi questa grande pagina politica, con cui è aperta inevitabilmente anche la nostra rassegna stampa, arriva con Renzi, che sempre secondo i giornali, così Renzi vorrebbe un cambio a Palazzo Chigi, Gualtieri equilibrato, ed ecco l'Italia di Italia Viva che tranquillizza i suoi: tanto non si va a votare. Quindi è un gioco di poker sulla pelle di tutta l'Italia, l'economia, e poi vediamo poi la fine, che sai, nessuno vuole incidente, ma forza di chiamarlo a volte sta di fatto che insomma a Renzi dedichiamo questo vecchio itinerario fo. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3.000 capriole. Napoleone prima andava matto per sto dramma, e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltar. Napoleone di Francia piange ancora e zitti spera, da quel dì che verso sera ce n'andammo senza recitare. Eppure voi ragazze piangerete, se dramma non vedrete fino in fine. Dove se state attente imparerete a far l'amore come le regine. E non temete se la notte è scura, abbiamo 30 lune di cartone, con dentro le lanterne col carburo, da far sembrare la luna un sol leone. Napoleon francese per vederci da vicino venne apposta sul Ticino contro i crucchi a guerreggiar. Napoleone primo che in prigione stava all'elba vi scappò un mattino all'alba per venirci a battere le mani. Oh. Ma che aspettate a batterci le mani, a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Per la regina scellerata, innamorata contra del figlioccio, far fuori tre mariti e una cognata, e dar la colpa al fato del fattaccio. Ma che aspettate a batterci le mani, a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e cuor farà 3.000 capriole. Dario Fo, ma che aspettate a batterci le mani, e re dei ciarlatani, dedicato a Matteo Renzi. Non si illude il paragone con Napoleone, gli uguali c'hanno solo l'altezza, per il resto. Comunque andiamo al terreno ambientale, perché andiamo in alto, andiamo sul addirittura sul ghiacciaio del Monte Bianco. Macron, sì, il presidente francese, sul ghiacciaio, la mia battaglia green. Ora, naturalmente, detto da quello che ha imposto l'Europa la filosofia del nucleare, francamente, di green è un green radioattivo. Comunque, il piano per l'ambiente, da qui ci si rende conto della emergenza. Il presidente francese sul Monte Bianco, quella per il clima è la sfida del secolo. Gli annunci, nasceranno 29 riserve naturali e un ufficio francese per la biodiversità. Il giornale di Macron sul ghiacciaio del Monte Bianco, naturalmente, la legge in maniera sovranista, perché tutto viene letto con questa griglia di interpretazione. E allora Macron ad alta quota, ma non vuole gli italiani. Ah no, diventa Mont Blanc, ma invece Mont Blanc è il dolce, Monte Bianco è il nostro monte. Ah. Il presidente sul Monte Bianco poi si rifiuta di incontrare la delegazione valdostana. Prima ha annunciato la creazione di un'area protetta durante il Consiglio di Sicurezza Ecologico tenutosi mercoledì all'Eliseo. Poi ieri si è presentato in carne ed ossa nel ghiacciaio Mer della Glace, mare di ghiaccio, mare di ghiaccio, situato sul versante nord del Monte Bianco, la vetta più alta d'Europa, per la quale il sindaco di Chamonix, Eric Fournier, aveva chiesto misure di tutela. Emmanuel Macron gioca a farla ambientalista con una visita che ha l'obiettivo di accendere riflettori sull'emergenza del pianeta e le tematiche verdi. Sorpreso dall'impressionante ed evidente scioglimento del ghiaccio, il presidente francese ha commentato in maniera colorita attinente al contesto. Vederlo fa venire le vertigini. Mentre invece la stessa notizia viene ripresa da Naigi Nori sulle pagine di Repubblica, che dice: la Mer de Glace ormai è uno stagno. Al nord del Monte Bianco la distesa imbiancata è ormai maculata di nero, con rocce e sassi emerse tra la neve sciolta. E ci sono due foto, una del 1875, pienissima di neve, il ghiacciaio che lambisce gli alberi a valle, e adesso invece è un ghiaione sconfinato con le montagne tutte secche e brulle. Mentre invece il commento di Valentina Cordon ci dice: muoviamoci o a fine secolo non ci sarà più niente, ci resta poco tempo per cogliere il grido di aiuto che stanno lanciando i ghiacciai in agonia. Persino in pieno inverno nel cuore del massiccio del Monte Bianco, come nel caso della Mer de Glace. E questo era appunto l'articolo che ci propone oggi il Repubblica, mentre invece la pagina che riguardano l'ambiente del resto del Carlino propongono lo stesso tipo di notizia, ma a livello del mondo. Caldo shock tra i ghiacci, 20 gradi in Antartide, e c'è la foto di un nuotatore che si sta facendo una nuotatina in mezzo agli iceberg. E a proposito di iceberg, ce n'è uno di oltre 300 km quadrati, grande pressappoco quanto Malta, che si è staccato dal ghiacciaio Pine Island in Antartide, generando enormi frammenti. Lo documentano dalla coppia di satelliti Sentinel 1 e Copernicus. E quello che riguarda invece il futuro, incubo 2030, orsi senza cibo. Si calcola appunto che sparirà la banchisa polare ghiacciata, la regione che costituisce i ghiacci antartici, nei mesi estivi, e ci sarà solo d'inverno. Un disastro, se così sarà, non solo per la fauna, che li troverà in difficoltà senza fine, gli orsi polari faranno fatica a cercare preda, ma in generale per tutto il mondo. E c'è una notizia bruttissima che viene data nelle pagine della Stampa, che riguarda una discarica tra Pescara e Chieti in Abruzzo. La discarica dei veleni, a 12 anni dalla chiusura, è inquinata persino l'aria. Lo stabilimento della Montedison ha creato un disastro ambientale. Le sostanze nocive che escono dal suolo, perché ovviamente la Montedison interrava i suoi depositi, escono dal suolo come gas. Ci sono 80.000 persone a rischio. Questa è Bussi, sul Tirino, dove c'è appunto questa discarica, e il Tirino è un piccolo torrente che sfocia nel altrettanto torrente Pescara, che arriva appunto fino alla costa dalle parti di Montesilvano, Francavilla a Mare, insomma la zona della provincia di Pescara. Questa è una notizia terribile, la discarica più inquinata d'Europa. Sì, essendo testimone oculare posso dire che il Tirino fino a Bussi è un fiume meraviglioso, canoabile, si beve. Dopo invece va evitato, è un disastro come totale. Disastro. Ok, quindi vengo invece al lavoro. muro contro muro, questo è l'aspetto governativo, si è detto e diceva l'Avvenire, il doppio rischio. Veniamo all'altro rischio, il paese dello 0, ultimo per crescita, tagliate le stime. La Commissione Europea parla di un più 0,3, quindi siamo a delle percentuali così da prefisso telefonico. Nel 2021 era dello 0,4 a novembre, contro una media dell'Unione Europea all'1,2, quindi c'è un rallentamento in Europa, ma da noi questo rallentamento è davvero vistosissimo. E la cosa naturalmente si riverbera come sempre su chi lavora, non certo su chi ci specula sul lavoro, magari con la finanza. Chi lavora invece, a cui dedichiamo questo articolo di Mario Pierro dal Manifesto, crisi Ocean Conad, 5.323 in cassa integrazione. Ora questa cosa, oltre a essere un problema ovvio grandissimo per i lavoratori che hanno questa integrazione che prima o poi finirà e quindi sono in un limbo a taglio ridotto perché si abbassa anche lo stipendio molto pesante, ovviamente è un indebitamento ulteriore della cosa pubblica, quindi gli stessi lavoratori che sono messi in cassa integrazione poi si pagano di fatto la cassa integrazione e poi dopo vengono bastonati perché c'è il debito pubblico e magari si tagliano le pensioni e il lavoro su questa cosa, quindi è una grande beffa, una drammatica beffa. La richiesta del 60% della Ocean Conad della forza lavoro, oggi a Roma l'incontro con i sindacati al MISE, cioè il Ministero del Tesoro e dell'Industria, dubbi sulla Filcam CGL e sulla procedura che riguarda molti punti della vicenda, questo è quanto. Ma poi sulle paracadute sociali per chi rimane senza un reddito abbiamo il reddito di cittadinanza, che sappiamo è oggetto degli strali di tutti perché sembra che sia il male dell'Italia il reddito di cittadinanza, non i soldi che sprechiamo peggio in armi, in opere inutili e quant'altro, ma il reddito di cittadinanza perché va a pagare da soldi ai poveri è insopportabile per molti nostri commentatori dell'economia. Oggi Salvatore Cannavò, che dal Fatto Quotidiano invece dà un'altra canzone, il reddito spinge l'economia, lo ammette anche Gentiloni. Gentiloni, e Gentiloni, questo anche vuol dire persino, perché Gentiloni non c'è stato mai stato tenero con le iniziative di questo tipo. Il rapporto della Commissione Europea, pieno di dati negativi sulla crescita, conferma però l'impatto positivo della misura sui consumi. Crescita molto debole però, e anche qui si conferma, PIL sarà solo del 0,3% del 2020, l'effetto della riforma vale fino allo 0,2%. Questo è il Fatto Quotidiano. Sì, parlando di lavoro, le pagine del Sole 24 Ore lo fanno in modo globale, complessivo, spaziano dal nord al sud dell'Italia, e quindi partiamo da Venezia. La sabbia blocca il porto e ora c'è una maxi manifestazione dei marittimi. La riduzione del pescaggio allontana dallo scalo veneto le grandi porta container. Burocrazia e processi decisionali lunghi bloccano il dragaggio dei canali. Per cui tutti i traghetti e i rimorchiatori sono tutti bloccati nel porto di Venezia. E c'è una notizia invece che arriva da Firenze, è ancora bocciato il piano di ampliamento dell'aeroporto. Il gestore ne prende atto della sentenza del Consiglio di Stato, che appunto ha bocciato il piano, e verificherà le azioni da intraprendere. Il potenziamento, dice Silvia Pireccini nell'articolo, dell'aeroporto di Firenze con una nuova pista e un nuovo terminal torna dopo anni di battaglie alla casella di partenza di questo gioco del monopoli. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Toscana Aeroporti e dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, ENAC, Comune di Firenze, Città Metropolitana, contro la decisione del TAR della Toscana che nel maggio scorso aveva annullato il decreto di valutazione di impatto ambientale. E in effetti noi di Bologna ne sappiamo qualcosa, visto che anche qui gli aerei passano attraverso il centro della città per atterrare, e spesso anche sopra la nostra terra. Mentre invece il Carlino, cambiamo giornale, la pagina nazionale, ci riporta una fotonotizia e all'interno c'è una bella inchiesta sulle pensioni. Pensioni sono bloccate e c'è una stangata miliardaria. In 8 anni i pensionati, grazie allo stop sulle rivalutazioni, gli assegni di pensione hanno perso da 1.000 a 8.000 euro all'anno e ci sono i sindacati sul piede di guerra. Ci sono all'interno di questo servizio, interviste con i vari segretari nazionali, dallo studio della UIL, che il segretario Proietti dice senza un cambio le riduzioni continueranno ancora nei prossimi anni, visto che non ci sono ancora nuove leggi e nuovi apporti sulle pensioni. La tassazione media sulle pensioni italiane è stato valutato che è doppia rispetto a quella dell'OCSE e l'indice di inflazione non segue gli anziani. Più di una pensione per uno su tre, ogni pensionato in Italia percepisce in media 1.424 euro di assegno, e il secondo rapporto di itinerari previdenziali sulle pensioni e dei pensionati è una sola prestazione, ma il 24,8% arriva ad avere due pensioni. Pensionati con un reddito complessivo di pensioni sotto le due volte del minimo sono oltre il 40%, quindi direi molto vicino alla maggioranza. E veniamo alla classe lavoratrice, che molto spesso è un baluardo di democrazia e civiltà. Come ci racconta la prima pagina del manifesto, porto d'armi. Oggi presidio dei camalli, sindacati e associazioni sotto la prefettura di Genova per chiedere lo stop alle navi con a bordo navi per la coalizione che bombarda lo Yemen. Previsto per martedì l'arrivo del cargo saudito Bahri Yanbu, porto mobilitato contro la guerra. E all'interno del manifesto che sto leggendo, vado a pagina 9, e ancora con Andrea Bottalico, We Won't Watch, questa associazione che guarda il traffico di armi dall'Italia alla rete globale che svela i traffici militari. Vogliamo definire, dice Carlo Trombota della Opal, vogliamo definire una geografia dei produttori di armi che trasportano questa merce attraverso i porti, il perno della filiera logistica militare, perché si parla di porti aperti e porti chiusi. Ma a chi è porti aperti e a chi porti chiusi? Leggiamo. Lo scorso 20 maggio la nave Bayou Batou, battente bandiera saudita, è attraccata al porto di Eritrea del porto di Genova. Il cargo trasportava un carico di armi pesanti destinate all'Arabia Saudita e si sospetta che avrebbe caricato un altro materiale bellico in Italia. Questo è un po' il riassunto. Dopo un presidio e uno sciopero è stato impedito alla nave di effettuare le operazioni di carico. Porti chiuse le armi, porti aperte i migranti, era scritto su uno striscione. In realtà si fa esattamente il contrario. Porti chiuse i migranti e porti aperte le armi. E allora, se c'è una cosa più odiosa del traffico d'armi, è l'ipocrisia sul traffico d'armi e sul genocidio. Perché leggo che Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, quella che bombarda lo Yemen, processa gli abusi in Yemen. E chi è che processa gli abusi in Yemen? Un organismo indipendente? No, i colonnelli che bombardano lo Yemen. E quindi, leggo, l'Arabia Saudita processerà i responsabili di violazioni contro i civili yemeniti. L'annuncio l'ha dato ieri il colonnello, sì, non il magistrato, non un saggio, non un filosofo, ma il colonnello al-Maliki, portavoce della coalizione saudita che dal marzo 2015 bombarda lo Yemen. Cioè, abbiamo bombardato tutti i bambini, però adesso chi ha fatto violazioni? E allora torna a Genova, si mobilita un'altra nave saudita in arrivo martedì. Stamattina il presidio del CGL e associazioni sotto la prefettura, i camali preparano la protesta al molo, basta cargo per le guerre. Il CALP aveva chiesto lo sciopero per fermare la città, i varchi presidiati non ci fermeranno. Questo dimostra che non sempre ha ragione Orietta Berti. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. E tu che vivi sempre sotto il sole, tra file di ginestre di lilla, al tuo paese c'è chi ti vuol bene, perché sogni le donne di città. Mi sembra di vedere mia sorella, che aveva un fidanzato di Cantù, voleva averne uno anche in Cina, e il fidanzato cancello, mi fa morire la curiosità, ma il grillo disse un giorno alla formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai, vorrei aprire in fretta il mio cancello, ma quel non domandarti perché suonerà il campanello suona per tutti, perché continuiamo a parlare di armi e traffico e scambio con i diritti umani. Beh, abbiamo visto appunto che, per esempio, la Libia, no memorandum, e nel frattempo si danno alla Libia nuove fregate per fare la guerra di Sarraj contro Haftar, e ad Haftar no, la nostra diplomazia, leggo dal Fatto Quotidiano, pace e petrolio, il nuovo appello dell'Italia ad Haftar. Dopo il premier Sarraj, Al Di Maio vede il generale, Al Di Maio perché è l'arabo, Di Maio vede il generale di Bengasi, unica soluzione il dialogo, ma piovono razzi sull'aeroporto di Tripoli. Ora è un dialogo difficile mentre sei sotto i razzi, che sotto colpi di cannone, colpi di mitra, eccetera eccetera. Il generale è riluttante, dice con un certo garbo l'articolo del Fatto Quotidiano. Il leader della Cirenaica ringrazia per l'impegno e promette di risolvere lo stop del greggio. Ancora in Egitto, noi anche lì vendiamo armi, abbiamo interessi di petrolio e chiediamo diritti. E allora ci apre la pagina della mobilitazione per Patrick Zaki, studente, sappiamo, egiziano, che ha fatto anche la prima città a Londra ma anche poi il master di Bologna, che è appena tornato in patria in Egitto per salutare i genitori, l'hanno ingabbiato e torturato, ed è davvero in una, come dire, in un vero buco nero. E allora la mobilitazione internazionale si sta mobilitando davvero in maniera vistosa, e questo forse è l'unico strumento per impedire una vicenda tristissima che si trascina fino alla tragedia finale. E allora Zaki trasferito, domani l'udienza, che ci faccio in mezzo ai criminali, si domanda questo ragazzo. Il ricercatore è spostato nel carcere per i delitti comuni. E qui già si capisce la strategia, depotenziare l'aspetto di oppositore per dire è un criminale qualsiasi, magari è un criminale in quanto omosessuale, abbiamo letto anche questo che si diceva nelle TV egiziane. L'incontro con i genitori dura un minuto, e allora la mobilitazione è decisiva, e certamente non possiamo aspettarci che gli antiedili partano dal governo egiziano, bisogna in qualche modo costringere di fronte a un osservatore internazionale a scarcerare Zaki. E allora corteo letture per Patrick Libero, lunedì l'evento degli studenti, leggo dal Corriere di Bologna, da via Zamboni fino al Crescentone, e saranno gli studenti, penso, speriamo di essere incintanti. Rettore e sindaco hanno garantito la loro presenza alla manifestazione per la sensibilizzazione. Sì, su Repubblica, nelle pagine che riguardano l'estero e in particolare l'Egitto, c'è una fotonotizia di piazza Scaravilli a Bologna con il presidio per Patrick Zaki, lo studente arrestato al Cairo, e grandi cartelli di Amnesty International e cartelli a favore di Giulio Regeni. E sempre sulle pagine di Repubblica ne parlano anche qui, finalmente abbiamo saputo quali sono le accuse che Al-Sisi muove nei confronti di Patrick Zaki, è accusato di pubblicazione di notizie false allo scopo di disturbare la pace sociale e creare il caos. E lo studente egiziano è accusato anche di gestione di account social allo scopo di minare l'autorità dello Stato e la pubblica sicurezza. Ieri nella fase di trasferimento appunto fra un carcere e l'altro, fra un carcere di massima sicurezza e un carcere comune e una cella insieme a delinquenti comuni, la famiglia ha avuto la possibilità di incontrarlo per appena un minuto. E l'inviata di Repubblica Francesca Cafferri parla anche delle leggi di Al-Sisi, Abdel Fattah Al-Sisi, 65 anni, premier egiziano, dice che le misure sono il terrorismo è usato come un alibi, la pena di morte, le modifiche alla legge del 2015 prevedono la pena di morte e l'ergastolo per reati legati al finanziamento e al sostegno delle attività terroristiche. Sarà accusato di finanziare il terrorismo chi fornirà armi o documenti dedicati, indicati come terroristici, o finanzierà viaggi ai fiancheggiatori. Questo era l'articolo, l'appello dei rettori italiani, dice: siamo preoccupati e vigili. Nella conferenza dei rettori italiani si registra grande preoccupazione le notizie relative all'arresto dello studente Patrick George Zaki. Questo è il comunicato regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Bologna e a pieno titolo parte della comunità universitaria italiana ed europea, sollecita e segue le concrete iniziative del ministro degli affari esteri già in atto a tutela dei valori di civiltà che costituiscono l'unicum della vita universitaria. E c'è da dire che il mondo delle università italiane si è comportato completamente in modo differente sul caso Regeni, e in quel caso c'era l'università di Cambridge. Devo dire che allora, tornando al corteo di lunedì, che quello che partirà dalle 18 al Rettorato e finirà in Piazza Maggiore, completiamo l'informazione con le prove di Anna Zanoli, presidente del Consiglio degli Studenti. Sentiamo. Abbiamo individuato assieme al Rettore e al Sindaco la data del 17 febbraio, lunedì. Partiremo alle ore 18 dal Rettorato, che è il cuore dell'università, e arriveremo poi in Piazza Maggiore. Daremo lettura di alcuni brani, ancora dobbiamo definire quali, pensavamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Abbiamo ricevuto moltissima solidarietà da atenei sia italiani che europei. Non abbiamo ancora avuto conferma di nessuna manifestazione simile in altri atenei d'Italia o d'Europa. Speriamo che si riesca a replicare anche in altri posti. Adesso che abbiamo definito la data, prenderemo contatti più concreti e cercheremo di sentire se c'è risposta anche a livello europeo. L'invito lo rivolgete comunque a tutta la comunità studentesca? Certo, tutta la comunità studentesca e tutta la città, in realtà. Chiunque si senta di venire a manifestare solidarietà assieme a noi. Quanti vi aspettate? Speriamo il più possibile. Stiamo coinvolgendo come invito chiunque, quindi associazioni. Non abbiamo una previsione del numero, purtroppo, però speriamo che tutta la città si mobiliti. Le letture prevediamo che appunto siano fatte da noi studenti, sia del consiglio che speriamo anche i compagni di corso di Patrick. Anche i docenti sono invitati? Certo, tutta la comunità accademica. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. Evidentemente anche la redazione della Città Fujiko aderisce convintamente a questa manifestazione e invita tutti i nostri ascoltatori a partecipare. Dicevamo prima, più rumore si farà, più è possibile in qualche modo togliere Patrick da questo incubo. E dietro Patrick e dietro Giulio Regeni ci sta tutta una serie di oppositori in Egitto, finite in queste carceri e torture nel più completo silenzio. Quindi, come dire, illuminarne un caso per accenderne tanti altri. Ma veniamo ai fasci. Ai fasci, perché parliamo di pubblicità. Allora, la prima pagina del giornale ci presenta questo libro, Fratelli d'Istria, italiani divisi. Fratelli d'Istria, il libro shock sulle foibe. Gli replica, sempre pubblicitariamente, l'ultima pagina del Manifesto, col lavoro di Francesco Filippi. Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, edito dalla Repubblica. Questo è a proposito. Invece veniamo ai giornali, che appena c'è un incidente del treno, subito si pensa all'errore umano, perché è la cosa più semplice, dar la colpa sempre agli ultimi della catena. Però questa volta a Lodi sembra non funzionare questo scaricabarile sui più fragili, perché il pubblico ministero a Lodi ha installato uno scambio difettoso, indagati i produttori. L'inchiesta sul treno deragliato, allertata la Unione Europea. Naturalmente si indagano i produttori, credo giustamente per fare chiarezza, ma sarebbe il caso, se fosse confermato questo scambio difettoso, indagare anche quelli che dovrebbero controllare le commesse. E quindi scambio difettoso, dice anche il Manifesto, svolta l'indagine sul Frecciarossa, deragliamento di Lodi, i periti scoprono un problema all'attuatore prodotto da Alstom. Sì, sul Carlino riprende la stessa notizia, ma c'è anche un'allerta generale, perché pare appunto che questo strumento, un relè elettronico che è stato comprato in Francia e funzioni al contrario, ma le Ferrovie dello Stato scusate cioè hanno fatto un acquisto collettivo, e quindi adesso la preoccupazione vale per la sicurezza della rete ferroviaria, dice. È abbastanza incomprensibile anche per noi, parla il capo dell'Agenzia della Sicurezza, alla luce di quelle che sono le condizioni con cui siamo a conoscenza, non sappiamo quello che è successo. Appunto, il direttore dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza, Marco D'Onofrio, che ieri è intervenuto in audizione nella Commissione dei Lavori Pubblici del Senato sull'incidente ferroviario del Frecciarossa. E ci sono altre notizie. Hai compito, se sospetti, poi parleremo. No, mi sono ripreso. Altre notizie di cronaca le prendiamo dalle pagine della Stampa, e sono la sindaca di Villa del Conte, in provincia di Padova, dove ha creato l'assessore alla solitudine. Contrastiamo una vita da robot, l'ironia dei consiglieri di opposizione è solo una trovata. E non c'è nessuna connessione, ma è il momento di parlare del coronavirus. E allora andiamo a questa notizia che arriva dai flash agenzie internazionali, che è la dimensione dell'allarme nel mondo. Succede, capita in Australia, al nostro antipodo. Oltre 100.000 studenti cinesi con visto australiano per studio, pronti a sviare gli studi questo mese, sono bloccati fuori dall'Australia per il divieto di ingresso imposto dal Canberra dal 1 febbraio per l'emergenza virus. Questo secondo il Guardian Australia Online, precisando che il bando prima di 14 giorni viene prorogato di 7 giorni. La misura sarà rivista su base settimanale, immediata la reazione dell'ambasciata cinese a Canberra, che ha espresso profondo rincrescimento e insoddisfazione ed ha giudicato eccessive queste manovre. Quindi c'è un problema ormai anche politico di ambasciate tra la Cina e il resto del mondo. L'ambasciata cinese basta insulti, questo tra Cina e l'Italia. Nicolò, il ragazzo finalmente torna a casa, c'è l'appello di un diplomatico, mentre 120 turisti lasciano Spallanzani. Amici italiani no a pregiudizi, quindi festa ovviamente per queste persone che davvero se la sono vista brutta, e invece adesso stanno bene, fortunatamente torneranno al loro paese, tra l'altro immuni dal virus. Ma allo Spallanzani invece la ricercatrice che isolò il virus sarà assunta. Questo per essere assunti bisogna scoprire il gene, dice no, ma l'avevamo chiesto anche prima, solo che avevamo chiesto anche prima, non veniva regolarizzato. Adesso invece, sull'onda della vicenda e dello scandalo di questo precariato ad libitum, ha un posto fisso, come giustamente lei e tanti altri meritano, perché oltre che lei anche tutto lo staff dovrebbe essere a dir poco regolarizzato. Ma veniamo al Quirinale. Dopo la polemica con la Cina che leggevo, sempre il Corriere con Marzio Breda, dice Mattarella rilancia l'amicizia con Pechino, il messaggio di Xi Jinping, vinceremo la battaglia. Questo è un concerto della pianista Bin Jinzhu, grande pianista, al Quirinale. Mentre abbiamo i termini proprio sanitari stretti, statistici dal Manifesto, nuovi criteri per il Covid-19, perché questo è il nome adesso, aumentano i casi. Negli Hubei in una sola giornata sono morte 242 persone, quindi davvero è vero che rispetto alla popolazione cinese sono sempre cifre percentualmente ridotte, ma se li pensiamo con il immaginifico manzoniano su dei carri di monatti, sono davvero tantissime persone. Jinping muove i suoi e cambia la leadership del partito nella regione, accusata di aver sottovalutato all'inizio la portata di questo contagio, e quindi c'è anche una resa dei conti nel partito cinese. D'altra parte ci sono gli avvoltoi, non già le aquile, che volano sulla Cina sperando di metterla in crisi a livello economico grazie al contagio. Questi sono gli Stati Uniti d'America, ovviamente, dico ovviamente perché il mondo gira così, ci piacerebbe che girasse diversamente. Cina non è trasparente con gli USA, questo è il contagio vicino, è sempre più verde, verrebbe da dire. L'Unione teme per il prodotto interno lordo, questo è il Fatto Quotidiano sul coronavirus. La polemica, Pechino rivede i criteri per il conteggio, boom di casi, i consiglieri di Trump, ecco Trump come sempre c'è la farina del diavolo tutta crusca, temiamo per la salute del popolo cinese, si teme, ci credo. Al Quirinale, Mattarella fiducia per le misure adottate dalle autorità di Pechino per la sicurezza sanitaria. E allora andiamo, c'è l'emergenza globale che viene sposata da Trump anche dal giornale. La Cina trucca i dati, ora è boom di contagi, via i vertici del partito, cambia la classificazione, spuntano migliaia di malati in più, Pechino si lura i responsabili. Sì, riprendiamo un attimo la notizia del coronavirus, il cosiddetto Covid-19, il virus è stato ribattezzato così. Dalle pagine del Carlino, che dipinge tutto di nero e ci parla di paura che viene dall'Oriente, ci fa anche presente delle curiosità, ovvero gli effetti sociali. Niente strette di mano, si cammina a una certa distanza gli uni dagli altri, non ci si tocca neanche per passare dei soldi, meglio i pagamenti elettronici, si azzerano i contatti fra le persone. In realtà però apprendiamo che, essendo cambiati i criteri di analisi per quello che riguarda i contagiati e gli ammalati, per capire appunto se si tratta di coronavirus, si è verificato un'impennata di persone ammalate, perché comunque le indagini sono diventate molto più efficaci. Riguardo a questo, anche le pagine della stampa di Torino: l'effetto coronavirus in Italia fa sì che Patuanelli acceleri un decreto per aiutare le aziende italiane, e Xi Jinping invece ha decapitato i vertici del Partito Comunista a Wuhan e ha modificato appunto i suoi rappresentanti. E c'è Mattarella che in un articolo di Ugo Magri ci parla appunto della diplomazia del sorriso con Pechino, l'interprete numero uno, incassa un punto a favore nei confronti della Cina, restano in piedi tutte le misure anticontagio già decise dal governo e ci mancherebbe altro, però va parecchio stemperandosi la tensione tra i due paesi innescata dal blocco dei voli. Prova ne sia che il messaggio caloroso inviato dal presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping al suo omologo italiano, il concetto chiave è che le difficoltà sono temporanee, le amicizie imperiture. Questo diceva Mattarella. Ecco, un flash di questo momento ci dà anche la dimensione, anche il rischio degli operatori sanitari in Cina, ovviamente, perché non facciamo confusione, parliamo della Cina, che è molto lontana dall'Italia. La Commissione Sanitaria Nazionale cinese ha reso noto che 6 membri del personale sanitario sono morti a causa dell'infezione al coronavirus. All'11 febbraio il numero di contagiati tra il personale medico è arrivato a quota 1716, cioè il 3,8% dei casi totali accertati nel paese. Il report dei decessi tra il personale medico infermieristico giunge una settimana dopo l'ondata di indignazione per la morte di Li Wenliang, il medico che per primo diede l'allarme sull'epidemia, ma che poi non venne, sappiamo, creduto, ahimè. Se ci avessero l'ho detto su fin da subito, forse avremo un contagio meno espanso. Vengo invece alla bomba virus, ovvero sia le guerre nel mondo dei trafficanti d'armi. C'è questo asse Siria-Iraq messi insieme dalla disgrazia. Idlib, più bombe per tutti ed è colpa dei tra virgolette terroristi, racconta Giampiero Gramaglia dal Fatto Quotidiano. È l'ultimo fronte con turchi, russi e siriani che si minacciano a vicenda, perché c'era l'alleanza tra Putin ed Erdogan, tra Russia e Turchia, ma quando Erdogan attacca il governo di Assad, sostenuto dai russi, questa alleanza si crepa. Quindi i gruppi si riminacciano a vicenda con la scusa di cacciare dall'enclave del nord-est i gruppi radicali. Insomma, i terroristi sono anche utili della jihad islamica, perché servono come alibi per tutti. Invece in Iraq abbiamo Bani Sadr, il leader filo iraniano così integralista, maggioranza del popolo al sud dell'Iraq, mentre a nord sono i sunniti e i curdi. Allora Bani Sadr tuona contro le piazze miste, le donne rispondono riempendole, e quindi ancora una volta le donne in prima fila per la libertà. Protesta popolare in Iraq, il religioso sciita redige un codice di condotta, quindi la donna onesta rimane a casa all'Akbar, non lo so, poi scioglie la milizia dei picchiatori. Questo è il quadro che arriva dal manifesto. Sempre nel mondo medio orientale andiamo in Israele, affari nelle colonie israeliane, ecco la blacklist dell'ONU: Airbnb, Motorola e TripAdvisor, le 112 aziende che violano il diritto internazionale. Rabbia Tel Aviv, allora, tra i coloni, chieste misure contro Michelle Bachelet e le Nazioni Unite. Addirittura la protervista gente che è in completa infrazione di ogni regola di diritto internazionale chiede le misure contro chi chiede il rispetto di questa regola internazionale. È il famoso mondo a piramide rovesciata. Quindi Sawan Zakher di Adallah, dal fronte palestinese: i palestinesi incassano una decisione fondata sulla legge internazionale, risponde Yossi Degan. La solita accusa chi attacca il governo israeliano e i coloni. L'alto consiglio ONU è antisemita ed ipocrita. Questo è il quadro che arriva dalla pagina del manifesto, che ancora sfogliando a mo' di gambero vado indietro a pagina 6 e trovo il Papa che benedice Lula per un mondo più giusto. Lula, che l'hanno fatto secco politicamente parlando con l'indagine farsa in Brasile per evitare che vada alle elezioni, le vincesse come era pronosticato da tutti e vincesse invece il fascista impazzito Bolsonaro dell'estrema destra. Oggi è dal Papa e questa cosa fa impazzire la destra medesima, ma dopo l'euforia della scarcerazione in Brasile, ex presidente non fa la differenza, perché il mondo nel frattempo è cambiato, dico io. Claudia Fanti, un'ora di colloquio privato in Vaticano, Francesco mi è stato vicino nei momenti difficili, dice Lula. I media, dice Jorge Mario Bergoglio, iniziano a parlare della gente, dei dirigenti, da quella calunnia li sporcano, poi entra la giustizia, li condanna e alla fine si fa il colpo di Stato. Questo, parole abbastanza precise, non velate, che arriva da Jorge Bergoglio. Ma andiamo ancora in giro per il mondo e vado in quindicesima pagina del manifesto, perché mi ritrovo con il voto del New Hampshire, che ha fatto vincere ancora una volta Bernie Sanders, che in Nevada però dei problemi, secondo il manifesto di Marina Catucci. Sanders in crisi con i cuochi del Nevada, il sindacato potente delle cuochi del Nevada non si schiera con Bernie Sanders, e Bloomberg con le minoranze, perché Bloomberg, il sindaco di ex sindaco di New York, scenderebbe in campo con i suoi trilioni e trilioni di dollari, però non sarebbe amato dalle minoranze. Quindi ancora una volta i democratici spaccati. E allora questo fa commentare Guido Molteido dal manifesto: le due sinistre americane alla prova di Trump. Prima si prefigurava una partita classica tra Joe Biden, il favorito e legato alla tradizione centrista e pigliatutto dei democratici, Bernie Sanders, utopico e per questo pericoloso, ma oggi non è più così. Sanders e Buttigieg non godono di simpatia tra gli afroamericani, il primo per privilegiare la lotta di classe sui diritti, il secondo perché come sindaco di South Bend li ha penalizzati. Altre di estero: Australia, arrivano le piogge, l'emergenza incendi è ufficialmente chiusa in Australia, non brucia più. Un annuncio ufficiale ieri è stato comunicato che tutti gli incendi nello stato del Nuovo Galles del Sud sono sotto controllo. Il vicecommissario dei Vigili del Fuoco Rob Rogers ha dichiarato che quella che si è conclusa è stata una stagione di incendi devastante sia per i pompieri che per i residenti. Dopo 28 morti, oltre 3.000 case rase al suolo, 1 miliardo di animali scomparsi e aree del patrimonio mondiale tra cui le Blue Mountain. Ancora dall'estero, il Regno Unito, il rimpasto del governo di Johnson. Ora ci sono solo fedelissimi al governo, alle finanze Sunak al posto del critico Javid. Dubbi su chi ha pagato la vacanza del premier su un'isola dei Caraibi. E ancora dalla Libia una notizia sempre di Repubblica: Di Maio incontra Haftar, bisogna lavorare e sedersi a un tavolo per un cessate il fuoco. E ancora altre notizie di esteri dalle pagine della Stampa, che parla in un'intervista di Mustafa Tazied in Iran. I Pasdaran vogliono il potere assoluto, i dissidenti resteranno in carcere. Chi è appunto Mustafa Tazied? È un politico riformista iraniano, membro del fronte di partecipazione dell'Iran Islamico, partito pro-democrazia e dell'organizzazione dei Mujahideen della Rivoluzione Islamica, già consigliere del presidente riformista Khatami. È stato imprigionato nel 2009 al 2016 e famigerato al carcere di Evin. E per quello che riguarda appunto le elezioni alle primarie americane, sì, anche se non è ancora arrivato nella sfida pubblica, c'è già un confronto tra Trump e Bloomberg. Loro due duellano in Twitter e Trump lo chiama il piccoletto, il pagliaccio che abbaia, accusato di essere un democratico con il portafoglio rigonfio. Questo è appunto. Chiudiamo, ma last but not least, con la presentazione della giunta di Bologna, che vede questa formazione descritta come fosse una squadra di calcio dal resto del Carlino. Ieri Stefano Bonaccini ha fatto questa conferenza stampa presentando ufficialmente la giunta. Dunque Bonaccini che mette governatore, vicepresidente con delega al welfare Ellis Line, Irene Priolo ambiente e difesa del suolo, infatti c'è il Carlino, il Corriere, Priolo scende dal tram Bologna, ora Mero lavora a rimpasto. Poi abbiamo Raffaele Donini politiche per la salute, Barbara Lori montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità, Andrea Corsini, mobilità e in trasporti, infrastrutture, turismo e commercio, Paola Solomoni, scuola, università, ricerca, agenda digitale, Paolo Calvano, decisivo evidentemente, come perché vuole il bilancio, quindi siamo proprio nella segreteria del PD, perciò il PD fa la parte di leone in questa giunta. Paolo Calvano, bilancio personale, patrimonio, riordino istituzionale. Vincenzo Colla, che si dice, viene scritto come il vice di Salvini, in realtà è l'antagonista di Salvini, del leader sindacato. Adesso mi verrà il nome, comunque famosissimo Landini, ecco, non vice, ma era rappresentante della minoranza, quindi al tempo renziano, Vincenzo Colla, sviluppo economico, green economy, lavoro e formazione, e confermato Mauro Filicori, la cultura e passaggio, nonché Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della regione. Questo è una poltrona per tre, è il titolo del Carlino, mentre il titolo del Corriere, Bonaccini cambia tutto, ecco la giunta. Allora sentiamo le parole di Bonaccini su questo cambio per la giunta che verrà. E con questo ci salutiamo. A risentirci. Noi dobbiamo continuare a cambiare. Se avessi dovuto misurare le qualità di chi ha lavorato con me nei 5 anni precedenti, credo che i risultati siano visti nel voto, avrei dovuto riconfermare l'intera giunta di prima, perché sono donne e uomini a cui va tutta la mia gratitudine per lo straordinario lavoro che hanno fatto. Però dobbiamo continuare a cambiare, perché questa società è una società in continua evoluzione, perché vogliamo fare sempre di più e sempre meglio, e io credo di aver composto una squadra fatta di personalità, competenze, rappresentanza territoriale e politica molto molto robusta e molto importante, quindi sono molto fiducioso che potremo fare altri 5 anni in cui portare questa regione a continuare a competere e forse competere ancora di più e meglio con i territori più avanzati di Europa e del mondo. Nelle deleghe c'è già un po' il programma per il futuro, sì. Il clima, il lavoro insieme alla formazione, insomma la strada è già segnata, è già precisa. Sì, ho detto che partiremo subito dai territori. La prima giunta utile il 9 marzo saremo a Parma, che è capitale italiana della cultura, in quel territorio, il 30 marzo a Rimini, che è dove presenteremo i progetti di rifacimento di tutto il lungomare a proposito di turismo, ma entro l'estate faremo 9 giunte, porterò la giunta come l'altra volta nelle 9 province di questa regione. Vogliamo stare molto sui territori, a contatto con la gente, con le persone. Certo, nelle priorità abbiamo indicato entro l'estate, ma io quando dico entro l'estate intendo molto prima dell'estate, patto per il lavoro e patto per il clima, perché dobbiamo proseguire su quel grande lavoro che abbiamo fatto, che ci ha portato a recuperare oltre 110.000 posti di lavoro. Dobbiamo fare in modo che il lavoro sia sicuro, garantito nei diritti, contrastare la precarietà, ma insieme per la prima volta una svolta ambientale, ecologica, di contrasto ai cambiamenti climatici, perché su quello abbiamo fatto troppo poco e stavolta vogliamo fare di più e meglio.